No, no, assolutamente non sarebbe un problema. Ho detto che porterei la bandiera anche quando, con la testa sotto al braccio, e quindi sarebbe un grandissimo onore. Le polemiche, direi che sono state, malgrado le osservazioni di Federica, che ha solo spiegato come funziona lei come atleta, e le polemiche poi sono state opera della stampa e dei mezzi di comunicazione che cioè, lancio un appello, non fatelo, non è degno della bandiera fare delle considerazioni del genere. Anche perché poi il giorno prima porti la bandiera, il giorno dopo magari arrivi quarta e arrivano le mazzate Sì, mediatiche. ma per come funziona lei sarebbe stato anche possibile, quindi per lei è stato come scegliere, prendere una critica prima o dopo, e lei ha scelto lo sport, è la cosa che stiamo cercando di fare. È possibile un podio a Londra, ci credi? Noi siamo ciò che pensiamo, quindi e per convinzione e per pragmatismo dico che vado per vincere.